Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: sarà una puntata molto dedicata ai consumi, oserei dire, se non fosse un termine un po' abusato, quasi sociologica, perché parleremo del rapporto Findomestic sui consumi e tendenze nei beni durevoli, e quindi stiamo parlando non dei beni di consumo quotidiano, per capirci, dove balza agli occhi l'aumento della spesa web, ripeto, non per comprare il bene ad alta frequenza di consumo, ma il bene durevole o semidurevole, anche perché emerge dall'inchiesta una paura delle volte nello shopping, quello fisico. Allo stesso modo ci occuperemo invece dei consumi, quelli non durevoli, quelli appunto quasi quotidiani. Parlo della spesa alimentare, perché c'è il rapporto della Coldiretti, una spesa alimentare che è crollata di 30 miliardi. Perché? Perché è aumentata la spesa del carrello nel primo lockdown e anche in questo secondo, però non ha compensato il crollo nella ristorazione, che ha dimezzato il volume d'affari, meno 48%, questo tenendo anche conto delle aperture tra, diciamo, maggio e ottobre, dove la ristorazione ha lavorato, per cui il meno 48% è fatto di probabilmente mesi in cui hai fatto meno 10, meno 20, e mesi in cui hai fatto meno 60, meno 70, e va aggiunto che è anche una media, e sappiamo il problema dei polli di Trilussa. Apriremo poi, sempre per un elemento di carattere sociologico, con la demografia in Italia e il rapporto Istat. È chiaro che la fotografia è soprattutto sul 2019, ma la cosa più interessante sono i mutamenti avvenuti da febbraio in poi. Questo appunto nel giorno in cui non si segnalano novità sul fronte recovery e governo, nel senso che si è ancora, i nostri GR24 vi hanno raccontato che non vi è stato l'incontro previsto per oggi con la delegazione di Italia Viva, ufficialmente, perché il ministro Bellanova era impegnata a Bruxelles, quindi è stato chiesto uno spostamento. In realtà molti hanno voluto vedere in questo ancora un mancato appianamento, diciamo così, delle tensioni all'interno del governo. Continuiamo a guardare con attenzione quello che fanno anche gli altri paesi in merito a misure. C'è un'ultima notizia invece che non riguarda per nulla la crisi economica derivante dalla pandemia. È il gruppo OVS che poco fa ha presentato un'offerta vincolante per acquisire alcuni asset di Stefanel, che era un marchio storico, poi finito male e attualmente in amministrazione straordinaria, e vogliono acquisire in particolare il brand storico dell'azienda, quindi il marchio vero e proprio, e ha approvato un aumento di capitale OVS da 80 milioni di euro per acquisizioni e fusioni, a partire, immagino, da quella di Stefanel. Ne parleremo magari nei prossimi giorni anche con Stefano Beraldo, nostro ospite già in altri casi, per raccontarci come andavano proprio i consumi. Dunque, vedo adesso varie dichiarazioni, però ve le daranno i nostri GR. Il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, ha detto che c'è un rapporto di positività che scende sotto il 10%, buoni dati clinici con un meno 92 nel ricovero in terapia intensiva, ma il dato dei morti è ancora elevato, è 864. E quindi e poi c'è il caso del Veneto, che sta sopra i 3.000 contagi con un tasso di positività del 18%, mentre cala la Lombardia e c'è un netto miglioramento in Campania. È chiaro che molti legano anche al fatto Veneto zona gialla l'aumento dei contagi e soprattutto dei ricoveri. Altre regioni, però, penso al Lazio, pur restando gialle, non hanno avuto un andamento simile. Poi bisognerebbe andare dentro analisi ancora più dettagliate, ma le lascio agli esperti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Per quello che riguarda i mercati, oggi sono tutti positivi. Milano è vicina ai 22.000 punti, più 0,80%, Parigi più 0,15%, Francoforte più 1%, Londra meno 0,34%, Dow Jones mezzo punto percentuale di rialzo. Guadagna ST Microelectronics più 4%, Mediobanca più 3,20% come Leonardo, il 2,80% CNH e anche Atlantia, il 2% Moncler e Unicredit e Fiat. Ferrari più 1,80%, Banco BPM più 1,5% come Buzzi, Unicem e Intesa. San Paolo, fronte opposto, Recordati meno 2,70%, Amplifon meno 2,5%, A2A meno 2,20% come Campari, Pirelli meno 2%, Italgas meno 1,36%. Allora 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Notizie, come sempre partiamo da notizie di carattere internazionale. Il vaccino contro il Covid di Moderna è efficace e sicuro e c'entra i parametri per un utilizzo di emergenza, lo afferma lo staff dell'agenzia americana, diciamo l'EMA americana, FDA, in un rapporto reso pubblico in vista della decisione ufficiale del 17 dicembre. L'EMA invece, quella europea, si riunirà il 21 dicembre per decidere sul vaccino. È probabile che i primi europei vengano vaccinati prima di Natale. Pfizer nel frattempo sta valutando altri siti per rafforzare in Europa la produzione del vaccino. Sappiamo che per il nuovo vaccino ci sono solo 4 siti di produzione Pfizer, 3 negli Stati Uniti e 1 in Europa, in Belgio. Poi vi sono i siti produttivi di BioNTech. E l'Unione Europea invece continua ad andare avanti sulle multe e anche le misure per le big tech, i grandi colossi della rete, quando non dovessero rispettare le nuove regole sull'utilizzo dei dati, la concorrenza e la moderazione dei contenuti online. Moderazione non vuol dire contenuti moderati, vuol dire che qualcuno li deve moderare, cioè non puoi far sparare sulla rete qualunque balla, qualunque fake news senza che la rete dica non è colpa mia, no, Facebook o quant'altro, siccome tu ci guadagni da quella roba, fai anche il piacere di verificare nei limiti del possibile quello che stai pubblicando, no? E l'Europa vuole arrivare fino al le multe arriveranno fino al 10% del fatturato in caso di per le grandi piattaforme che dovessero essere trovate colpevoli di violare deliberatamente le regole della concorrenza, fino al 6% per chi non del fatturato globale, per chi non rispetta gli obblighi di moderare e rimuovere la propaganda terroristica o altri contenuti illegali pubblicati dagli utenti. Se verranno multate 3 volte in 5 anni, saranno etichettate come recidive e l'Unione Europea si muoverà per separare strutturalmente le loro attività europee. Ma è definita da Bruxelles un atto di ultima istanza, quindi l'estremo rimedio, l'estrema razio. Adesso vedo Rezza che dice: ancora presto per dire se potremo riaprire o no le scuole anche le superiori dopo le feste natalizie. Sì, io però adesso massimo rispetto, però decidiamo quali sono le priorità di un paese, perché le scuole, da un lato ci dite che non c'è un tasso di contagio più alto nelle scuole, il problema è il trasporto, inventatevi qualcosa per il trasporto locale. Non lo dico a Rezza, lo dico al governo, ma anche alle autorità e agli enti locali, regioni, comuni per quanto di pertinenza, perché non è possibile che qua abbiamo discusso per una settimana sull'apertura degli impianti sciistici e poi la prima cosa che si dice ma forse non riapriamo sono le scuole, in questo caso le scuole superiori, se ben capisco anche quelle gli ultimi anni delle medie, perché un paese deve anche decidere qual è la cosa più importante. Sì, ho capito, far vivere il commercio, ma forse anche mandare i ragazzi a scuola. E trovate, immaginate un'alternativa, immaginate alternanza, DAD, presenza fisica, non lo so. Faccio notare che negli altri paesi evidentemente ritengono le scuole più importanti di noi, visto che in buona parte sono aperte. Comunque adesso non voglio tornare, vedremo le decisioni prima o poi anche del comitato. Andiamo avanti con le altre notizie. Il debito, vabbè, le entrate tributarie, segnala Banca d'Italia, sono in calo di 33 miliardi nel mese di ottobre. I prestiti invece al fondo di garanzia dato dell'ABI sono saliti a oltre 118 miliardi, 1,5 milioni di domande, di cui 1,24 milioni per i prestiti fino a 30 mila euro. I prestiti comunque in generale sono aumentati del 5% rispetto a un anno fa, i tassi sono ai minimi storici. La crescita dei depositi bancari continua, anche se più ridotta, più 8% a novembre contro il 10% di ottobre, trainata dai depositi. I depositi bancari a novembre erano aumentati, sono aumentati di 10 miliardi rispetto a un anno prima. Quindi vuol dire che gli italiani che hanno potuto hanno messo sul conto corrente, sul deposito, 110 miliardi in un anno, che sono l'equivalente, diciamo, di 8 punti di PIL, sono l'equivalente di 5 manovre finanziarie di una volta, perché chiaramente l'incertezza fa sì che tu non li voglia spendere. Questo è un dato che va preso con molta attenzione, perché vuol dire che poi c'è da un lato la possibilità di spendere in questi italiani e di fare anche altri investimenti, ma dall'altro lato è che finché non ci sarà una situazione più tranquilla, questi soldi resteranno nel conto corrente. Le sofferenze sono stabili, dice sempre l'ABI. Il commercio con l'estero invece a ottobre ha fatto meno 1,3, ma soprattutto meno 8% rispetto all'anno prima, soprattutto per l'area extra UE meno 9,7, ma anche l'area europea meno 7%. Il dato è di ottobre. L'inflazione non esiste, meno 0,2%, esiste un po' sui beni alimentari, quelli maggior acquisto, beni per la cura della casa della persona, più 1,2%. Veniamo invece ai dati sul reddito di cittadinanza ad agosto. Dunque, il dato il reddito di cittadinanza a novembre è rivolto a 1,2 milioni famiglie con 2,8 milioni persone coinvolte. Poi c'è anche oggi il caso di Alfonso Mannolo, boss della cosca di 'Ndrangheta di San Leonardo di Cutro, beccato a percepire il reddito di cittadinanza, sempre grazie alla Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi in un'operazione malapianta beni per 430.000 euro. Però dicevo, i dati sul reddito di cittadinanza sono 2,8 milioni persone coinvolte, 1,2 milioni famiglie, a cui si sommano i percettori del reddito di emergenza, 253.000 famiglie, pari a 700.000 persone coinvolte. Importo medio per il reddito di emergenza di 560 euro. Il recovery, dicevamo, le tensioni. Allora, il Premier Conte oggi ha parlato all'assemblea di Coldiretti, poi parleremo dei dati emersi da lì, e ha detto le tensioni sono legittime, il piano per il recovery sarà nazionale. Comprendiamo bene che fino a quando questo piano non sarà definito, giustamente ci siano ansie e tensioni, anche legittime, perché è una grande occasione storica per l'Italia, quindi è giusto che fino a quando non sarà definito, non sarà collettivamente condiviso, ci siano questi atteggiamenti. Lo abbiamo detto, sarà un piano nazionale. Non abbiamo assolutamente come governo una concezione padronale. Non è che perché ci siamo battuti in Europa per ottenere queste risorse riteniamo che siano nostre e debbano essere gestite con arbitrarietà da parte del governo o di qualche singolo ministro. Assolutamente no. Queste risorse sono le risorse della comunità nazionale. Sarà il piano nazionale. Ogni singolo cittadino dovrà in qualsiasi momento poter controllare sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul sito ufficiale, ogni progetto, lo stato di avanzamento di ogni progetto, e potrà verificare se per la realizzazione di quel progetto, di quegli investimenti pubblici destinati a noi tutti e anche alle future generazioni, quel progetto, quell'investimento sia o meno in ritardo, ci siano delle carenze nell'esecuzione o meno. E questo è il miglior sistema a garanzia di tutti. Allora, invece Renzi rivendica il fatto che il documento, il piano, quello presentato per sommi capi dal Presidente del Consiglio, è stato bloccato. E quindi abbiamo bloccato il blitz notturno da Italia Viva. il blitz notturno che avrebbe fatto approvare un documento non condiviso da nessuno e una task force in grado di sostituirsi al governo e Parlamento. Sui temi del salto di qualità diremo la nostra al Premier, e appena consegnato il documento al Premier lo manderemo a tutti gli amici delle E-News, dove stiamo facendo una battaglia per le idee. Oggi ero ospite a 24 mattina con Simone Spezia il coordinatore di Italia Viva, Ettore Rosato, che ha detto: adesso vogliamo le risposte, siamo contrari al commissariamento dei ministri. Noi abbiamo fatto delle domande e non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Noi non lavoriamo per far cadere il governo, ma se non c'eravamo noi che mettevamo uno, quel riparto era quella task force con il commissariamento di tutti i ministri, era approvata tra gli applausi generali. Cioè non si può fare, non si può pensare di governare un paese così. Il Premier ha avuto poteri straordinari perché c'è una pandemia straordinaria, ma non è che questi poteri straordinari da usare per la pandemia si possono tradurre in faccio tutto quello che voglio da solo. Cioè noi vorremmo vedere che questi poteri li avesse utilizzati per il vaccino antinfluenzale, che non è stato somministrato nel nostro paese, non per distribuire le risorse del recovery plan senza sentire nessuno. Faremo di tutto perché questo governo funzioni, perché ci sarebbe piaciuto vedere o nel Partito Democratico, diciamo, o anche nel Movimento 5 Stelle un moto di orgoglio del dire: no ragazzi, non si può fare così, non si può commissariare abbiamo i ministri migliori del mondo, ha detto Conte, dopodiché prendiamo 6 super manager che li sostituiscono. Allora non sono i migliori del mondo, vuol dire che sono degli incapaci. Io sono orgoglioso delle nostre ministre, io sono molto orgoglioso, per questo non penso che vadano commissariate da 6 super manager che non sappiamo chi sono e che non rispondono agli italiani, perché dopo non vengono i super manager in Parlamento a coinvolgere e a capire e a spiegare che cosa si sta facendo. Allora, dopodiché invece sul fronte politico oggi il ministro Boccia ha detto: vogliamo mettere in sicurezza gli ospedali anche durante le festività natalizie, viene prima la salute e poi il business, senza vita non c'è alcun business. Il riferimento, dopo ha fatto un appello lo stesso Boccia insomma alla responsabilità. Allora Boccia in qualche modo rispondeva alle polemiche nate per una frase, diciamo così, fuori dal sen fuggita del presidente Confindustria Macerata Domenico Guzzini, che ieri sera durante un evento online dedicato alla moda, Made for Italy per la moda, aveva detto: la gente è stanca, e la frase era: vorrebbero venire fuori, le persone sono stanche di questa situazione, l'industria è in ginocchio, anche se qualcuno morirà, pazienza. Chiaramente è stata una frase nemmeno infelice. Io invito tutti quanti a stare sempre molto attenti a mettere in contrapposizione, so che lo fanno delle volte anche i partiti o opinionisti, la salute con l'economia, perché tutti quelli che ci hanno provato, penso a Johnson e a Trump per usare gli esempi più illustri, hanno dovuto far marcia indietro un secondo dopo. Ma attenzione, perché le due cose non possono essere disgiunte. Abbiamo appena dato il dato sui depositi bancari: se i consumatori, i cittadini non si sentono tranquilli e temono una situazione ancora pesante e quindi non di sicurezza anche sanitaria, mettono i soldi sul conto corrente, e questo lo vediamo da quelli che possono. Quindi è inutile continuare a dire bisogna pensare all'economia come se fosse in contrapposizione con la salute. Bisogna pensare a risolvere la pandemia e cercare di dare in maniera efficace delle reti di protezione più possibile al mondo economico e alle imprese, e anche di iniziare a scrivere bene, aggiungo io, sto recovery plan nei dettagli, perché poi ho visto che il presidente di Federalberg in bocca lamenta giustamente una misura minima, 3 miliardi e solo l'1% per turismo e cultura. Per favore, andate a scriverlo per le categorie più colpite, questo bisogna fare, e andare nel dettaglio, non immaginare solo grandi capitoli con frasi molto, molto diciamo generiche su chi è che può dire di no all'istruzione, ricerca, all'investimento in istruzione e ricerca, alla rivoluzione verde, la transizione ecologica. Poi bisogna vedere come la fai. Però per favore, ho visto che poi Guzzini ha chiesto scusa, ha sbagliato nei contenuti e nei modi. Ho fatto un'affermazione sbagliata che non raffigura il mio pensiero né tantomeno quella dell'associazione. Dello stesso tenore anche la dichiarazione del presidente di Confindustria Marche, Claudio Schiavoni, che ha detto: da no, per, per noi da sempre vengono prima i nostri collaboratori, le vite umane, la salute e poi le aziende. Ecco, qualcuno mi scrive: non si può nemmeno sopprimere la vita sociale per l'ipotesi di salvare la salute di qualcuno. Guardi, qualcuno chi? Che siamo a 65.000 qualcuno che non si sono salvati. Due, vede qual è il problema? È che se i reparti vengono sommersi, come abbiamo sempre raccontato, il problema ce l'hanno anche tutte le altre patologie. A parte il fatto che non accetto il ragionamento, chi se ne frega, tanto colpisce solo chi ha più di 70 anni, che non è nemmeno vero. Lo ha fatto Boris Johnson, se lo ricorda, quando disse: dobbiamo prepararci a dire addio ai nostri cari, e tutta la Gran Bretagna lo salutò e poi fu ricoverato. Ecco, il Regno Unito non ha ucciso l'economia come noi. Guardi, il dato sul PIL britannico nel terzo trimestre e anche nel secondo era peggiore di quello italiano, quindi delle due l'una: o il PIL non vale niente, o se no. Allora, quello che dico io, attenzione, perché la vita sociale tanto non riparte se non riesce a mettere in sicurezza l'aspetto sanitario. Tu puoi aprire negozi quando vuoi, dai. Va bene, sono un demente. Ok. Andiamo avanti, anzi andiamo da nessuna parte, andiamo sul meteo e la pubblicità, poi iniziamo a parlare del rapporto Istat Guardi, per favore, l'ho già detto, non si blocca il mondo per due morti di influenza. Allora, vada a farsi un giro nei reparti, non rompa le scatole a questo programma. Evidentemente lei ha tutte le verità rivelate. Dopodiché, questo vale anche per i vaccini. Io penso che non sia sbagliato, così me la tira fuori, quello che ha deciso San Marino. E varrebbe anche, a mio avviso, per i negazionisti. Allora, tu sei convinto che non esista. Se vieni ricoverato, io non ti voglio pagare le cure, va bene? Che mi sono rotto le palle. Allora, lei è convinto che sia solo un'influenza, qualcuno che mi sta scrivendo? Benissimo, facciamo così: prossima volta che dovesse capitare qualcosa a lei, diciamo, qui, non voglio che venga caricata sul sistema sanitario nazionale. E San Marino ha deciso, attenzione, fagli scongiuri adesso, vero? Poi la paura fa 90. San Marino ha deciso che se tu non ti vaccini, in caso di infezione da Covid-19, ti paghi le cure. Bene? Andiamo di fare così. Già basterebbe questo, secondo me, per sconfiggere molti negazionisti. Comunque, perché quando devi tirare fuori migliaia di euro di tasca tua, vediamo se te la metti sta mascherina o se continui a raccontare queste balle così, giusto per farsi notare. Comunque, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, meteo e pubblicità. E però una cosa che mancava, che è una buona notizia, secondo me. Il pubblico ministero di Vicenza Luigi Salvadori ha chiesto oggi una condanna a 10 anni di reclusione per l'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin al termine del processo per il crack dell'istituto e conseguente azzeramento dei titoli in mano a quasi 120.000 risparmiatori. E le richieste sono state di 8 anni e 6 mesi per l'ex vice direttore generale Emanuele Giustini e Paolo Marin, 8 anni e 2 mesi per l'ex consigliere Gianmarco Zigliotto e 8 anni per l'ex vice direttore generale Andrea Piazzetta. Adesso sì che c'è il meteo. Focus Economia. minuti. Dunque, al di là, diciamo, molti dicono: beh, attenzione però, Barisoni, perché se passa il principio di San Marino, è quello che io ho usato come estremo, dire: guardate, io a questo punto a chi nega l'esistenza del Covid farei pagare le cure mediche, dice, allora vale anche per i fumatori, faccio l'esempio, o per chi beve. Guardate che intanto è vero, ma le faccio notare una cosa: chi fuma in via di principio non nega che venga un tumore. Io purtroppo sono un fumatore, non ho mai conosciuto nessuno che negasse che il fumo fa male alla salute. Qui stiamo parlando di persone che continuano da mesi a smentire il fatto che il Covid sia un problema, che si muoia di Covid, che le terapie intensive siano piene. Uno, a livello concettuale. Due, lei come sa benissimo, lo Stato ha anche come principio etico, tassa tantissimo i prodotti che ritiene dannosi per la salute. Infatti su un pacchetto di sigarette, se non ricordo male, la tassazione è all'80%. Come dire, ti fai del male, io intanto ti tasso per cercare di creare un deterrente e intanto incasso, visto che poi forse dovrò pagare le tue cure, visto che sei un fumatore. Terzo aspetto, esiste già un principio del genere. Se lei fa una polizza assicurativa nel privato, vada a vedere come cambia il premio se è o no fumatore. Cioè c'è già un riconoscimento di dire, attenzione, tu sei una persona che si è messa a rischio. Ovvio che la mia è una provocazione, ma fino a un certo punto, perché i casi che ho citato nel caso classico, cioè le sigarette, uno, nessuno nega, non c'è un negazionista in giro sulle sigarette, due, ci paghi l'80% di tasse così impari ad avere il vizio, tre, da questo punto di vista nel privato già si fa così, dopodiché andiamo avanti perché... Vabbè, ma c'è gente che oggi non sta bene, vabbè. No, perché leggo dei messaggi, ragazzi, che... Poi mi scrive giustamente un ascoltatore, però poi quando tocca loro padre o loro madre cambiano idea, ahimè, sapete cos'è. Allora, è l'altro che mi dice la Svezia, ma per favore leggetevi cosa sta succedendo in Svezia, dai, basta, ma perché non leggete i giornali? Allora, Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, buonasera. Buonasera. Dunque, non parliamo con lei di tassazione e di spese mediche, ma comunque ribadisco che le accise servono anche per pagare lo Stato di spese future. Comunque, allora, e vale anche in altri paesi, andate a vedere quanto costa un pacchetto di sigarette in Australia, costa sui $15, se non ricordo male, $16. Comperi, ti fai un danno che dovremmo curare nel sistema e ci paghi. Allora, andiamo avanti. La demografia in Italia, il rapporto del 2019, in realtà con l'anno che abbiamo vissuto invecchia moltissimo il rapporto. Siamo sotto i 60 milioni di residenti, 59 milioni 641 mila. L'età media sale in Italia a 45 anni, quindi continua a aumentare il rapporto tra over 65 e chi ha meno di 15 anni. Ci sono 5 anziani ogni bambino sotto i 6 anni. E il 50% degli italiani ha al massimo la licenza media. Il sud continua una fuga inesorabile nel 2019 di residenti, sono 400.000 residenti in meno. Il 2019 però aveva segnato anche un aumento degli occupati e meno inattivi. Per quello che riguarda i calcoli invece l'effetto Covid, visto che voi rappresentate l'Istituto di Statistica, sentiamo cosa ha detto il suo presidente Blanciardo. Oggi ha detto: guardate che quest'anno supereremo il confine dei 700.000 decessi complessivi, non capitava dal 1944. È chiaro che non è ancora finito l'anno, quindi faremo un bilancio alla fine, però è chiaro che la previsione, una valutazione molto ragionevole, fa pensare che quest'anno purtroppo e facilmente supereremo il confine dei 700.000 decessi complessivi, che è un valore preoccupante. Pensi che una cosa del genere in Italia era successa nel 1944, quindi l'ultima volta che siamo andati oltre i 700.000 morti era eravamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, certo. Quindi è chiaramente un anno purtroppo particolarmente sfortunato. Così rispondo anche a chi mi scrive da giorni: non ci sono i morti in più. Rosina, è brutto parlare di questo. Intanto, giustamente, molti ascoltatori mi fanno notare che un quarto punto sulla differenza tra sigarette è che se fumo danneggio me stesso, se invece esatto. Sono un negazionista e vado in giro senza mascherina, me ne sbatto di tutte le raccomandazioni, infetto anche gli altri e non solo te stesso, che è un punto non da poco. Ma è chiaro che lì siamo in preda all'individualismo più anarcoide mai visto, cioè uno pensa solo a se stesso, ma che cavolo me ne frega, il Covid non esiste, e poi casomai si ammalano gli altri. Allora, i dati statistici però su questo, Rosina, ci dicono, ahimè, che c'è stata una variazione netta dell'aumento dei decessi nel 2020? Sì, assolutamente, questo è indubitabile. Sulle nascite non sappiamo ancora, perché i mancati concepimenti saranno mancate nascite nel 2021 e anche lì potremmo scendere sotto una soglia sotto cui non siamo mai scesi, che sono le 400.000 nascite, potremmo andare sotto nel 2021. Per i decessi invece l'Istat ha già iniziato a contarli e quindi i dati sono quelli che il presidente Brangiardo ha detto, quindi su questo non ci sono dubbi, cioè un'impennata unica, inedita e che è molto preoccupante. Che voi vedete anche confrontando le serie storiche delle mortalità nei 5 anni. Dica. Qui non c'è questione che tenga dicendo ma come vengono contabilizzati, ma esatto, se uno aveva già insomma multicronicità, stava già morendo per altre cause di morte, se poi si prende il Covid e muore per lo considerano come contabilizzato come morto per Covid. Quello che sta facendo l'Istat è quello di confrontare i decessi di quest'anno rispetto a cui mese per mese, tra l'altro, rispetto a cui la differenza rispetto agli anni precedenti e la media degli anni precedenti è proprio l'impatto della pandemia, non c'è nessun altro fattore interveniente. Cioè, lo dico anche ai terrapiattisti del Covid, se così vediamo di dare qualche nozione, a parte il fatto che qua c'è il genio che mi insulta sempre, dice nel 1944 la popolazione italiana era di 40 milioni di persone, sei un co. Ecco, no, rifletta su questa cosa. Se era di 40 milioni di persone e abbiamo avuto 700.000 morti solo nel 44, come la valuta adesso che siamo a 60 milioni con 700.000 morti? Cioè, se dal 44 adesso non c'è mai stata una ed eravamo più popolosi, diciamo, 10-20 anni fa, come la valuta questa? Faccio un passaggio ulteriore. Tornando a noi, lei sta dicendo, Rosina, che al di là della morte per Covid, morte con Covid, voi avete preso i decessi. E allora o immaginiamo che ci sia stato un evento, non so, l'extraterrestre, qualcosa d'altro, i decessi degli anni precedenti, gli anziani c'erano anche prima, le patologie le avevano anche prima e ahimè si moriva per quelle patologie anche prima, notate però quello che si chiama uno scarto statistico totale, ho capito bene? Assolutamente. Sì, e questo è proprio inequivocabile, cioè non c'è nessuna contestazione in questo caso che tenga, perché non è legato a nessun tipo di classificazione del dato del decesso, è semplicemente il fatto che nel 2020 ci saranno molti più morti in più, e quindi da dove arrivano questi morti? Esatto, da dove arrivano? Non lo so, mi rispondono tutti questi ascoltatori, da dove arrivano? O mettiamo anche in discussione la statistica, l'anagrafe e il numero di decessi. Certo, tutto si può fare pur di non ammettere. Vabbè, con le teorie complottistiche non Dunque, un'altra cosa preoccupante che voi notate è, oltre all'aumento impressionante dei decessi, c'è un paese che continua a invecchiare, anche perché quest'anno, se ho ben capito, Rosina, vi saranno meno nascite. Sì, questo sono tutta una serie di indizi che abbiamo raccolto, tra l'altro analisi fatte sia in Italia che negli altri paesi, che abbiamo raccolto in questo rapporto che abbiamo presentato ieri insieme alla ministra Bonetti, dove abbiamo messo assieme tutte le maggiori ricerche ed evidenze empiriche, i dati a disposizione, e sembra assolutamente prevalere l'aspetto negativo, cioè di riduzione della natalità come conseguenza appunto delle difficoltà. Sono vari fattori sostanzialmente che vanno messi insieme, sono aumentate le difficoltà economiche, è aumentata l'incertezza legata anche all'occupazione, è diventato più pesante la conciliazione fra lavoro e famiglia, è più difficile anche il ricorso al welfare informale che era quello dei nonni, eccetera. E la difficoltà poi dei giovani di trovare lavoro e di formare una propria famiglia, ecco, tutti questi aspetti messi assieme fanno pensare che appunto ci sarà una riduzione molto consistente, tra l'altro anche chiedendo alle persone stesse, perché abbiamo fatto anche un'indagine con l'Istituto Toniolo, insomma abbiamo raccolto dati, tra l'altro sia all'apice del precedente lockdown, quello di marzo e aprile, e sia poi poco prima della nuova ondata ad ottobre, e i dati sono costanti, cioè c'è una conferma del fatto che una buona metà di giovani di giovani under 35 che prevedeva di conquistare l'autonomia della famiglia d'origine, formare la propria famiglia e avere figli, sta o annullando questi progetti o li sta posticipando. No, perché lo dico, può sembrare una battuta, ma giustamente un ascoltatore mi dice: ma magari l'assenza di, cerco di dirla in modo più aulico che riesco, l'assenza di altre attività dovuta al lockdown magari potrebbe aver portato le persone, diciamo, a fare più figli, non so come girarla, però il problema che lei pone in evidenza, Rosina, è che uno i figli di solito li fa guardando le prospettive future, non è un one shot, ecco, mettiamola così. Per cui non è fai un figlio e poi te ne dimentichi, e le prospettive future, l'assenza di il ritardo nell'uscire di casa, nel formarsi una famiglia, le incertezze economiche sono tutti elementi che vanno a frenare l'elemento sulla natalità. Rosina, c'è qualcosa di visto che insomma, lei è professore ordinario di demografia alla facoltà di economia dell'Università Cattolica di Milano, qualcosa di, non dico positivo, ma così di un po' più benaugurante che lei ha visto nel rapporto dell'Istat? Beh, l'Istat stesso ha indicato alcuni aspetti interessanti. C'è da un lato uno spopolamento di alcune realtà, soprattutto quelle interne, mentre altre realtà, grazie anche all'immigrazione, stanno reggendo meglio. E quindi c'è proprio un impatto anche dell'immigrazione rispetto al sud, sempre più in declino anche demografico, il nord tutto sommato meno, alcune regioni meno e alcune città e realtà urbane meno. Però quello che è interessante è che anche alcuni borghi italiani, indipendentemente da dove sono collocati, se c'è un investimento, un'attenzione rispetto al proprio patrimonio artistico, alla valorizzazione anche ambientale, sono in controtendenza, si stanno rafforzando mettendo in atto appunto dei circuiti virtuosi dal punto di vista economico, demografico e sociale, e quindi sono proprio degli esempi delle possibilità che questa valorizzazione del patrimonio, insomma, che noi abbiamo, artistico, culturale, ma anche coniugato poi con gli aspetti anche digitali, ovviamente, perché si può anche lavorare bene in un borgo anche lontano da un centro urbano e con lo smart working comunque fare un'attività trovandosi anche con un contesto ambientale favorevole, che possono, certo, se promossi nel modo giusto, insomma, avere dei riscontri positivi. Dall'altro, l'altro aspetto interessante è che comunque il desiderio anche dei giovani italiani di avere dei figli continua a essere in linea con la media europea, che okay, è vicino ai due figli per donna. E se noi quindi realizzassimo quelle politiche, ad esempio quelle del Family Act, in combinazione, che sono più di asili nido, assegno unico universale, congedi anche di paternità eccetera, ma in combinazione poi con Next Generation EU, cioè progetti che effettivamente aiutano le nuove generazioni ad avere un ruolo anche di rilievo nella ripresa, nella crescita. E qui torniamo al recovery plan, perché voglio dire, esatto, nelle politiche dov'è che sono 17 miliardi, li avevo visti, politiche di genere, composizione sociale e territoriale, devono andare anche tutte gli interventi, oltre che sulla coesione territoriale, anche sulla e la parità di genere, proprio sulle politiche per la famiglia. E questo, però dobbiamo aspettare il dettaglio. Dunque, giustamente invece, mi fa notare, ma non avete detto quali furono i morti nel 2019, avete ragione. Dunque, Blangiardo, l'ISAT prevede, non è ancora finito il 2020, ma che saremo sopra i 700.000 decessi complessivi. L'anno scorso i decessi complessivi sono stati 647.000, quindi almeno 53.000 sono in più rispetto all'anno scorso. Io ho visto anche le medie degli anni precedenti, Rosina, erano più o meno i decessi complessivi nel paese erano più o meno abbastanza stabili. Assolutamente, sì, cioè le variazioni c'erano comunque, perché nella popolazione che invecchia aumenta anche la popolazione più fragile, quindi i decessi aumentano, ma non con un salto di quel tipo, assolutamente. Ecco, no, così rispondo a chi mi diceva giustamente, ma dateci anche i decessi nel 2019, 647.000 nel 2019, dato stabile da anni, e sopra i 700.000 nel 2020. Adesso vediamo cosa mi diranno i terapeutisti del Covid, come si spiegano questi più di 53.000 morti di differenza. Io ricordo cosa ha detto il filosofo Galimberti, che i negazionisti hanno paura della paura e quindi hanno angoscia, sono i più spaventati di tutti, quindi non riuscendo neanche a elaborare un'idea della paura vanno al negazionismo, che è un modo in psicanalisi per contenere l'angoscia. Questo è l'unico modo in cui riesco a capire determinate posizioni. Non vuoi vedere la realtà, neghi anche l'evidenza, è quando sei veramente spaventato. Infatti io ho anche un affetto verso i negazionisti, che sono ancora più spaventati del sottoscritto, è per questo che non riescono a vedere la realtà. Grazie anche a Alessandro Rosina, appunto professore ordinario di demografia della facoltà di economia alla Cattolica di Milano. Lo so che si sono irritati, perché quando analizzi i dati statistici è lì, no, viene fuori tutta la rabbia, perché non sai più cosa negare. Mi rendo conto, ma pensate che noi siamo contenti? Non sarebbe stato meglio fare una puntata dicendo: ah, non c'è nessuna variazione statistica nel numero dei decessi? Chiaro che alcuni di questi decessi, hanno ragione gli ascoltatori, possono essere causati, anzi sicuramente sono causati dall'ingolfamento, diciamo così, dei reparti ospedalieri, delle cliniche tradizionali, dei ritardi nell'andare a trattare altre patologie, ma il risultato purtroppo non cambia cambiando l'ordine dei fattori. Allora, adesso vado alla chiusura di borsa e poi parliamo invece del rapporto della Coldiretti sulla spesa alimentare degli italiani, e invece il rapporto di Findomestic sulla parte che riguarda i beni durevoli, così andiamo anche sull'andamento dei consumi. 349-238-6666 per sms e whatsapp. La chiusura più 0,81% Milano, più 1% Francoforte, mezzo punto percentuale di rialzo il Dow Jones, invariata a Parigi, Londra meno 0,30%, confermo bene Steam Microelectronics più 4,20%, Mediobanca più 3,30%, CNH più 3 come Leonardo ed Atlantia, male ricordati meno 3, A2A meno 2,5, Campari meno 2,30 come Amplifon. Andiamo su GR24. Dale online e ci guadagni online. Prima non eri online, adesso hai Italia Online. Sito, pubblicità online e presenza social. Compri ora e paghi in primavera. Vai su italiaonline.it. Un luogo straordinario a ridosso delle Alpi, ricco di tesori d'arte e naturalistici. Una cultura antica dalla quale nascono vini pregiati, la cui vivacità accompagna da sempre i brindisi, dona piacere, leggerezza e gioia di vivere. Uno stile di vita inimitabile, riconosciuto in tutto il mondo. Un prodotto unico, capace di illuminare ogni attimo. Franciacorta, il brindisi per le tue feste. Very Italian, Very Franciacorta. Scopri di più su franciacorta.net. Multimac è business partner di Zebra Technologies per la trasformazione digitale nella supply chain. Connettere in modo intelligente persone, risorse e dati per assicurare le migliori decisioni in tempo reale. Multimac.it. Connecting Technologies. Diabete? La glicemia sale, scende. Che stress monitorarla. Con il sistema Freestyle Libre basta una semplice scansione, e con l'app Freestyle Libre Link puoi misurare i valori del glucosio sempre e ovunque. Chiedi un campione gratuito su freestylelibre.it. Il sistema Freestyle Libre e Freestyle Libre Link sono dispositivi medici CE2797. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Freestyle Libre e i marchi correlati sono di proprietà Abbott. Outmins al 41220. Con il sottocosto di Mediaport, il Natale è ancora più magico. Offerte straordinarie sulla migliore tecnologia. Notebook HP con processore AMD Ryzen 7 a soli 649 euro. Disponibili 1800 pezzi. Fino al 20 dicembre in negozi online. Mediaport, il Natale fatto apposta per me. Gli attacchi informatici possono nuocere gravemente alle imprese. Scopri il tuo livello di sicurezza. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Diciotto e sette minuti. Vabbè, ci sono puntate che vanno così, evidentemente. Aver avuto un ospite che fa lo statistico, avere citato i dati statistici dell'Istat ha fatto venire il fumo agli occhi, o meglio il rosso davanti al toro, ai negazionisti. Faccio notare, come mi segnalano molti ascoltatori, che questo scarto nei decessi è nonostante il lockdown, cioè noi non sappiamo, e non ho nessun dubbio, infatti l'Istat non dice che sono decessi in più per Covid, dice che ci sono più di 50.000 decessi in più rispetto all'anno scorso e alla media degli ultimi anni, e ti dice complessivi. Possono essere purtroppo anche molte patologie che per colpa del Covid non si è riusciti a curare. Però fate anche un ragionamento su cosa sarebbe successo senza i lockdown, che hanno messo in ginocchio l'economia di tutti i paesi occidentali, Europa inclusa, non solo dell'Italia, e poi ne ragioniamo. Allora, per quello che riguarda invece gli altri temi, sì. Ah, giustamente mi fate notare che in Spagna, se uno vuole aprire le pagine dei giornali spagnoli, c'è una polemica enorme, perché l'istituto, l'Istat spagnolo, è andato a fare lo stesso confronto di cui abbiamo parlato oggi con l'Istat italiano, e ballano tra virgolette 30.000 morti tra le cifre ufficiali del governo spagnolo e quelli che l'Istat spagnolo dice essere i decessi veramente per Covid. C'è una polemica immensa, a dimostrazione che il tema non è solo italiani. Vabbè, italiano. Allora, e sono calati anche i morti per incidenti stradali, aggiungo ai negazionisti, per cui, ma dopodiché basta, è che sono andati pazzi, perché quando hai a che fare con i numeri e non puoi più sostenere che le colonne, dopo le colonne d'Ercole finisce il mondo. Allora, restiamo sui numeri invece, perché oggi c'è anche il rapporto della Coldiretti sulla spesa alimentare nel 2020. Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti, buonasera. Buonasera. Oggi è intervenuto alla vostra assemblea il Presidente del Consiglio Conte, ha detto che l'agricoltura deve essere l'asse portante del recovery plan, però aggiungo io, senza polemica ma con critica, vogliamo vedere tutti gli assi portanti del recovery plan e i dettagli del recovery plan. Allora, per quello che riguarda la spesa alimentare, uno poteva immaginare che è vero che i ristoranti e i bar sono stati forse il settore, assieme al turismo e alla cultura e alla scuola, più penalizzato, però lì uno poteva immaginare che il volume d'affari complessivo nel mondo alimentare fosse stato riequilibrato dal maggior consumo a casa. È vero che non siamo andati al ristorante marzo, aprile soprattutto, alcuni anche dopo, e di nuovo ottobre, novembre, però abbiamo consumato a casa. In realtà voi ci state dicendo che non è così, cioè non c'è un riequilibrio vero e proprio. No, non c'è un equilibrio assolutamente, perché quello che è l'incremento che si è registrato nei consumi domestici non ha compensato la caduta, il crollo verticale dei consumi extradomestici, che viene quantificato in 30 miliardi di euro che si sono persi nel corso del 2020. Ricordiamo che i consumi extradomestici ovviamente non sono soltanto i consumi dei cittadini italiani, ma sono anche i consumi alimentati dai flussi turistici, per cui da questo punto di vista è chiaro che non aver avuto i flussi turistici, aver avuto appunto le chiusure e tutta quella serie di limitazioni alla ristorazione ha comportato questo crollo appunto del fatturato. Perché voi stimate infatti che pur essendo aumentata del 7% la spesa, diciamo, nel carrello, quindi fatta per mangiare in casa, questo non ha compensato il crollo del volume d'affari del 48%. Questo cosa significa sulla filiera agroalimentare? Sulla filiera agroalimentare significa soprattutto che l'impatto è poi sulla media, ma soprattutto alta gamma, nel senso che i ristoranti, certo, i bar, le pizzerie, ma anche gli agriturismi rappresentano appunto il canale attraverso cui i grandi formaggi, i grandi vini, i grandi salumi, gli oli italiani trovano il loro massimo di esaltazione. Per cui il fatto di aver avuto questo canale bloccato ha fatto sì che appunto gli importi siano quelli che dicevamo prima di 30 miliardi, ma soprattutto siano andati in grossissima difficoltà quelle che sono le eccellenze, quelli che sono i prodotti a maggior valore aggiunto. Per banalizzare, i tagli migliori di carne sono quelli che poi vengono proposti al ristorante, quindi da questo punto di vista vediamo che c'è stata una grossa difficoltà non soltanto per l'agroalimentare in genere, ma anche per quello che è la produzione di media-alta gamma. Sì, questo vorrei capire una cosa, però lei dice, allora, è vero che c'è nel consumo, diciamo in maniera più banale, però mancano i turisti stranieri, che spesso in Italia sono dei big spender, cioè spendono sulla fascia medio-alta, non solo, ma spesso. E in aggiunta noi stessi, cioè italiani, quando vai al ristorante magari tendi a spendere un po' di più di quello che compri, Bazzana, quando vai al supermercato, perché c'è una gratificazione diversa, perché vuoi sperimentare il cibo, chiaramente se hai i soldi per farlo, e quindi non è equiparabile la spesa, diciamo, quella del carrello con quella del ristorante. Ma non c'è un effetto anche di valore complessivo? Voglio dire, è ovvio che il cibo al ristorante, proprio perché c'è di mezzo la così mediazione del ristoratore, del cuoco, dello staff che deve lavorare, lo stesso cibo ti costa di più e quindi al supermercato lo paghi 10, al ristorante lo paghi 30 e l'effetto sul valore è molto più pesante? Sì, sì, no, ma il dubbio che esistono tutte queste componenti, però consideriamo che l'ulteriore componente è quella dell'export, nel senso che poi certo, questo tipo di ragionamento che abbiamo fatto per il mercato interno lo dobbiamo estendere e sovrapporre a quello che è l'effetto sull'export, dove, come giustamente si diceva prima, il lockdown ha interessato analogamente altri paesi, parlo della Germania, la Francia, la Gran Bretagna, che sono paesi, i principali paesi verso cui noi esportiamo, in cui c'è stata magari la chiusura anche qui dei ristoranti, delle pizzerie e via discorrendo. Mm-hmm. E qui è un effetto che comunque ha generato una moltiplicazione di ricaduta, non solo sul mercato interno ma anche sul mercato esterno, limitando le nostre esportazioni, che sono in certi versi per alcune voci cresciute in valore ma sono calate in quantità. In volume. Senta, un'ultima domanda, perché dopo parleremo dei beni durevoli. C'è una distinzione fondamentale tra beni a consumo e frequente beni durevoli. Se io ho rinviato l'acquisto del televisore, della lavatrice, della lavastoviglie, quello che volete voi, lo rinvio magari di un 6 mesi, un anno e poi la compro. Se invece io non vado a cena nei mesi del lockdown o perché non mi fido degli strumenti di prevenzione e del virus, quella cena non la recupero, cioè non è che dopo un anno posso fare 3 cene al giorno, a meno che non voglia, diciamo, farmi ricoverare, a proposito dei temi, e quindi è una spesa persa per sempre, a differenza di altri settori. Voi vi immaginate e che recupero vi potete immaginare? Ma il recupero ci potrebbe essere su certi eventi, nel senso che se non si è celebrato un matrimonio, potrebbe esserci un recupero perché successivamente uno magari farà il pranzo di matrimonio, o magari ha fatto una cosa molto limitata e domani magari la farà più diffusa. Ma quanti sono i casi che potrebbero verificarsi? Pensiamo a quello che potrebbe essere un consumo procrastinato come quello del vino. È chiaro che certi vini vengono invecchiati, però c'è un problema poi di spazio fisico nelle cantine, nel senso che se non sono riuscito a eliminare vendendole parte degli spazi occupati, poi nella prossima vendemmia mi ritrovo con non sapere più dove mettere appunto il prodotto. Lo stoccaggio, cioè, una catena, certo, che deve girare e che non riesce comunque a girare. Sì, sì, cioè, allora è vero che è chiaro che c'è, lo stanno scrivendo anche gli ascoltatori, un valore più alto, cioè se tu quello che paghi 5 euro al supermercato, al ristorante lo paghi 20, se va bene, aggiungo io, è chiaro che il valore d'affari crolla, magari non crollano la quantità ma crolla il valore d'affari. È anche vero che c'è un problema di stoccaggio di magazzino, lei citava una delle poche cose che si possono stoccare, nel senso il vino, magari anche quello buono, perché tutto il resto è un consumo quotidiano. La filiera però sta reggendo o no, Bazzana? Nel senso che un conto è così andare sotto pressione e reggere l'urto, un conto se poi abbiamo dei problemi proprio di tenuta della filiera stessa. È un discorso molto diversificato, perché comunque dipende da quante scorte aveva questa filiera e qual è lo sviluppo della filiera. Mi spiego meglio. Chi faceva il vino per la ristorazione, chi aveva come cliente appunto la ristorazione, si trova in grossa difficoltà. Chi serviva la grande distribuzione o un dettaglio specializzato, è chiaro che si trova in una condizione differente. Quindi dipende un momentino da quello che era il canale che veniva utilizzato dall'azienda e quelle che sono state le vendite e quindi i consumi per quell'azienda. Faccio un altro esempio. Sono aumentati per certi prodotti i consumi di ortofrutta, la quarta gamma, quindi l'insalata in busta, ha sofferto tantissimo perché, non essendoci il pranzo fuori casa, non si è appunto utilizzato il prodotto a servizio aggiunto, ma la gente, consumando a casa, ha preferito comprare il prodotto convenzionale. Allora, ultima domanda, rapidissimo. Qualche beneficio è arrivato dalle vendite online? Mi spiego. Sappiamo che per fortuna i negozi alimentari non hanno mai chiuso, neanche durante il lockdown, quello duro di marzo e aprile, però vorrei capire se le imprese che voi rappresentate come Coldiretti hanno avuto anche una capacità di, chiaro che con prodotti deperibili come sono quelli spesso alimentari un po' più difficile, ma di riposizionarsi sull'online? Allora, è chiaro che le aziende hanno fatto delle scelte, mi spiego meglio. Chi aveva appunto la consuetudine, non so, di fare i mercati dei produttori in vendita diretta o di accogliere in azienda direttamente i consumatori che acquistavano il prodotto, nel momento in cui i consumatori avevano una mobilità ridotta o i mercati non si potevano appunto frequentare, diciamo, certo. Così si è studiato appunto una rete, abbiamo 75 mercati di Campagna Amica che fanno la consegna diretta, per cui c'è stata la possibilità di sviluppare l'online in modo tale che a fronte di un ordine ci potesse essere poi il recapito a domicilio di quello che era il prodotto che era stato richiesto. Quindi da questo punto di vista si sono sviluppate delle strategie, delle modalità alternative. È chiaro che è una parte abbastanza ridotta, nel senso che comunque l'agroalimentare italiano fa dei volumi veramente grandi. Come dicevamo prima, sono aumentate del 7% le vendite nel dettaglio, quindi c'è stato chi ha comunque incrementato, però ricordiamo che circa un terzo dell'agroalimentare va nell'extradomestico, per cui assolutamente non c'è stata questa compensazione. Ok. Okay, no, è chiaro che poi torniamo sempre lì, cioè sull'extradomestico alla fine di tutto il ragionamento. Grazie anche a Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti. Traffico. Focus Economia. E dai beni alimentari, quindi dai consumi a maggior frequenza, ai beni durevoli. Oggi invece c'è stata anche la 27ª edizione dell'Osservatorio 2021 di Findomestic, che va a fotografare l'andamento dei beni durevoli. Ora è chiaro che nel momento in cui parliamo di beni, in cui acquisto può essere spesso anche posticipato, proprio perché sono beni che devono durare, a meno che tu non abbia la lavatrice o frigorifero rotto improvvisamente, e di un acquisto che non è giornaliero, che fai di solito meditando un po' di più sulle varie offerte, il risultato è che c'è stato un boom del canale di vendita online. Se ho ben capito, ringrazio Claudio Bardazzi, che è responsabile dell'Osservatorio Findomestic. Buonasera. Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti. Ecco, ho capito bene, cioè la tipologia del bene durevole fa sì che ancora di più nel momento in cui tu hai restrizioni allo spostamento, in alcuni casi avevi proprio i negozi chiusi per comprare quei beni, ma restrizioni allo spostamento e in parte anche il timore, diciamo, di troppi contatti fisici, c'è stata un'impennata molto forte del web, della vendita online, mi scusi. Sì, confermo, già con il nostro osservatorio mensile avevamo rilevato come in un solo anno si è invertito il rapporto tra chi preferisce il punto vendita fisico e chi preferisce l'online. Oggi il 54% degli italiani intervistati dichiara di preferire il canale digitale d'acquisto. Ma diciamo che nell'anno che stiamo vivendo gli italiani sono stati forzatamente avvicinati all'e-commerce. Pensiamo per esempio al primo periodo del lockdown, in un contesto di chiusure. Sono stati 1.300.000 italiani che si sono improvvisati nuovi web shoppers, e laddove l'esperienza è stata positiva, laddove si sono superate quelle resistenze, quei timori che tenevano lontani dal canale digitale molti italiani, ecco che l'abitudine poi si è consolidata e magari si è continuata ad acquistare online anche dopo il lockdown. Certo, parlando di durevoli, l'e-commerce ha potuto sostenere alcuni dei mercati che noi monitoriamo con il nostro osservatorio, quindi mi riferisco per esempio alla categoria dei beni che rientrano nella tecnologia consumer, dove c'è stato un incremento dell'incidenza dell'online davvero importante, complessivamente arriva a valere il 22%, ma nei mercati veicoli, nei mercati del mobile, laddove i clienti da tradizione preferiscono orientarsi verso il punto vendita fisico, ecco che l'e-commerce ha potuto ben poco, nei veicoli, nell'auto vale poco più dello 0%, nel mobile resta comunque con una quota del 13% molto marginale. Sì, e questo, diciamo, da dice lunga anche sull'accelerazione che hanno avuto alcuni processi, perché voi ricordavate che dopo anni in cui comunque il canale tradizionale era sopra quello digitale, canale fisico, adesso si è invertito con il 56 1,5%. Dall'idea che lei si è fatto, però, è dovuto, come dicavo anch'io, alla particolarità della situazione, quindi difficoltà a spostarsi, impedimento a spostarsi in altre aree del paese, anche se sei di una rossa o arancione fuori dal tuo comune, centri commerciali chiusi nei fine settimana dove si acquistano anche beni durevoli, e quindi insomma è anche timore di contatto, oppure può diventare un elemento strutturale, cioè che una volta andati lì, andati sull'online, non si torna più indietro. C'è un mix delle due componenti. Le chiusure, le limitazioni alla mobilità hanno sicuramente forzatamente avvicinato gli italiani all'e-commerce. C'è da dire però che appunto una volta che si sperimenta l'acquisto online, buona parte di chi si è trovato bene consolida questa abitudine al ricorso online. Però ecco, le dico anche che laddove oggi non si va in negozio dopo le riaperture, non lo si fa perché si preferisce l'online, ma non lo si fa di tornare in negozio anche perché c'è il timore del contagio e perché nel 63% dei casi, ci dicono i nostri consumatori intervistati, si è persa la piacevolezza per andare per negozi. Per cui, certo, rispondendo alla sua domanda, parte di coloro che oggi dichiarano di preferire l'online, no, alla luce di un anno come questo in cui manca anche la sicurezza nell'andare per negozi, sicuramente continuerà a ricorrere al canale digitale d'acquisto, ma buona parte di questi, quando l'esperienza in negozio tornerà a quella del passato, sicuramente tornerà a preferire il punto vendita fisico. E questa è una buona notizia, non perché io ce l'abbia con online, ma perché ritengo che sia importante anche l'acquisto, l'ho messo anche nel libro, se il negoziante sa fare consulenza, e a mio avviso il governo dovrebbe pensare, adesso è anche presto, perché siamo ancora in fase di zona rossa, arancione, gialla, ma quando si potrà riaprire tutto, a una campagna di sensibilizzazione molto forte per tornare a comprare nel negozio, a patto appunto che il negozio poi si metta anche in condizioni concorrenziali, quindi faccia consulenza, non sfrutti solo la prossimità o la posizione fisica, che non è più una rendita ormai con online, e stia attento anche ai margini. Però secondo me una campagna per tornare anche culturalmente a utilizzare i negozi sarebbe fondamentale. Sono d'accordo con lei, in questo momento non c'è solo la paura in senso stretto, perché spesso le procedure sono assolutamente rispettate, c'è proprio la mancanza di una piacevolezza, quindi devo uscire per comprare qualcosa che mi si è rotto un conto, ma andare a fare uno shopping come una volta, con anche il gusto di guardare e chiedere così, non c'è, non è aria, non è caso, e soprattutto vediamo anche poi gli allarmi lanciati dalle autorità locali, quindi... Però la prendo come un elemento di speranza, cioè che comunque quella voglia lì poi tornerà ad esserci una volta che vi saranno le condizioni sanitarie. Quindi chiudiamo nel ringraziare Claudio Bardazzi, dove siamo partiti. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.